Buongiorno e benvenuti a Luogo Comune, la trasmissione radiofonica che analizza luoghi comuni, motti, aneddoti e modi di dire per poterli confermare o smentire con l'aiuto di un ospite. In studio a tenervi compagnia per la prossima mezz'ora Valentino De Luca. Ricordiamo di cercarci su Facebook come Luogo Comune, il logo è quello di Radio Città Aperta e 88.9 è la foto, insomma, di profilo. Su Twitter, se vi piace cinguettare, @luogoc, oppure scrivete una mail con parere suggerito o i prossimi luoghi comuni, anche se ormai siamo agli sgoccioli per la verità, comunque anche per magari per la prossima stagione, a luogocomune.radio@gmail.com. Il luogo comune che tratteremo oggi è il Salento, è la Giamaica d'Italia. Anche quest'anno si conferma il trend dell'estate dell'ultimo decennio. Il Salento è la prima meta turistica nella scelta degli italiani, soprattutto quelli più giovani. Prezzi contenuti, mare cristallino, lunghe spiagge dove potersi riposare e soprattutto tanti appuntamenti musicali ogni sera. Il Salento, infatti, oltre insomma ad aver dato i natali ad artisti come Albano, Emma Dolcenera, i Negramaro, ed essere anche la terra della pizzica e della taranta, ormai da anni viene scelto come punto di riferimento per tutti gli amanti della musica reggae, che possono trovare sempre nuovi appuntamenti per divertirsi e ballare in spiaggia, nel dancehall e quant'altro. Però quello che vorrei capire oggi, se il Salento è solo spiaggia, sole, musica reggae, come vive questa terra lontano dall'estate? Può proprio la musica reggae invece veicolare messaggi sociali che parlano alle persone di questa terra ed essere generalmente paragonati alla Giamaica ha solo aspetti positivi o c'è anche insomma il lato negativo? Per affrontare, andare un po' a spolpare questo luogo comune, ne parliamo in collegamento telefonico con Nando Popu, voce storica dei Sud Sound System, gruppo reggae salentino affermatosi ormai da decenni in campo nazionale e internazionale, che sicuramente conoscerete. Ciao Nando. Eccomi qua, un saluto alla radioascoltatrice e radioascoltatori di Radio Città Aperta. Senti Nando, come hai capito insomma c'è molta carne al fuoco, perché bisogna un attimino vedere questo Salento come Giamaica d'Italia. Questo è il luogo comune che abbiamo scelto. In realtà quello che volevo parlare era un pochino dei diversi aspetti di questa terra. Tu, partiamo da un tuo analisi personale, tu come sei legato a questa terra, insomma, che legame affettivo, che legame proprio sanguigno hai con la terra in cui abiti? Ma guarda, c'è un legame affettivo, amo la mia terra come se fosse qualsiasi altra terra, anche perché insomma mi piace ribadire il fatto che siamo cittadini del mondo. Le radici poi sono delle metafore, noi non siamo alberi, siamo degli esseri umani, abbiamo le scarpe, non abbiamo le radici, i nostri piedi. Poi certamente nell'ambito artistico spesso bisogna fare ricorso a queste metafore che aiutano a spiegare o a elevare il pensiero attraverso dei livelli di astrazione, ma insomma mi piace il Salento come mi piacciono tutte le altre zone del mondo, anzi devo dire che a volte questa terra mi fa anche arrabbiare, tanto e tante che l'amo, però insomma ci vivo qui e faccio di tutto affinché sia un posto vivibile. Ma senti, secondo te come mai il Salento, soprattutto dal 2000 in poi, insomma in questi ultimi 15 anni, ha conosciuto un boom turistico nelle preferenze insomma di tutto il paese e non solo, per quanto riguarda la scelta vacanziera? Insomma, come ricordavo nella premessa, anche quest'anno la Confesercenti conferma il fatto che il Salento è al top come scelta. Secondo te perché è così è stata scoperta soprattutto, ripeto, dal 2000 in poi e continua a essere di anno in anno insomma rinnovata questa scelta di amore nei confronti di questa terra? Ma un po' la colpa è nostra, perché comunque prima del 2000, già negli anni 90, almeno nell'ambiente musicale si era diffusa la voce che d'estate qui si ballava, si cantava gratis, per cui cioè, ci sono stati vari eventi dove, come anche delle occupazioni di masserie, oggi è una cosa impossibile, ma all'epoca si facevano, occupavamo le masserie, ci stavamo lì per tutta l'estate, ci venivano tutti i gruppi da Roma, Bologna, Milano, tutti i ragazzi dei centri sociali, insomma erano squat all'aria aperta in campagna. Sceglievamo, diciamo, quelle masserie che erano vicine al mare proprio per permettere questo connubio tra mare e campagna. Ed era anche un bel tipo di vacanza che purtroppo, devo lamentare una cosa, non molti lo hanno preso come modello. Oggi si preferisce molto di più il modello isterico, hanno fatto un copia e incolla in alcuni luoghi dalla Riviera Romagnola, giusto per offrire servizi a pagamento, insomma chiaramente la vacanza si paga, anche perché qua è una terra povera e il turismo sta offrendo, diciamo, sta ridistribuendo un po' il reddito a chi non poteva accedere prima ad oggi. Ma per esempio a me piace dirottare i turisti nelle campagne, dove non sono più turisti ma sono ospiti, visitatori, dove si trovano a contatto con una natura ancora tranquilla, serena, dove non c'è tutto il chiasso e il casino che sinceramente a volte mi dà sui nervi. E poi un'altra cosa, la campagna per tanti secoli che è stata abbandonata, purtroppo le industrie hanno fatto emigrare un sacco di contadini, e poi vedi le campagne quando non c'è nessuno, quando manca il presidio umano, diventano le terre dei fuochi. Invece se c'è qualcuno a vigilare, a lavorare onestamente, nessuno si permette di andare a insozzarle. Le spiagge del Salento sono stupende, ma non abbiamo, diciamo, tanti chilometri a disposizione. E poi mi piace ricordare che le coste salentine sono anche luoghi di riproduzione ittica, cioè sono zone pascolo, proprio in cui proprio nei periodi estivi ci sono molte specie che si riproducono, te lo dico anche da pescatore dilettante, mi piace andare a pesca ogni tanto, comunque mi piace preservarti lì questi posti, anche perché il turismo a volte è come una lima. In che senso? Rovina, insomma, cancella, una sorta di usura nei confronti del territorio, e quando poi viene a mancare una manutenzione di questi lidi, di questi luoghi, si rischia di perderli per sempre. Quindi insomma un turismo in un certo senso ecocompatibile, sostenibile, ecco. Ma guarda, non stupido, chiamiamolo non stupido, perché comunque la stupidità ha permesso di fare tanti scempi qua, dai veleni che sono sotterrati sotto terra, sotto il terreno, alle campagne, alle spiagge che sono state lottizzate in modo stupido, hanno tirato via delle scogliere che stavano sulle cartoline, cioè cose assurde per avere 10 metri quadrati in più di spiaggia. Questo è il segno proprio di quell'isteria collettiva che spesso accompagna le vacanze estive. È un po' come lasciare abbandonare per strada, in autostrada, il proprio cane, vedi? Siamo sullo stesso livello. Questo però succede anche, permettimi, dimmi anzi se siete d'accordo o meno, quando si fiuta subito l'affare. Cioè, secondo me, negli anni che stavamo prendendo in esame, appunto, molti imprenditori, piccoli imprenditori, insomma, gente che anche aveva un po' le mani in pasta sul territorio, insomma, sì, fiutò a quel tempo, e continua a farlo adesso, la possibile ricchezza che si possono fare nei 3 mesi estivi. Tu giustamente hai citato anche la Terra dei Fuochi. Io a questo proposito ti faccio, visto che ti vedo molto, ovviamente, insomma, non dico esperto, ma comunque, insomma, conosco, ferrato sull'argomento, grazie. E, diciamo, il Salento ha conosciuto anche fenomeni di questo tipo, cioè fenomeni di sfruttamento intensivo del territorio, sfruttamento intensivo ambientale. Come... No, parliamo proprio di ecomafia. Magari ci fosse stato lo sfruttamento del terreno, qua si parla proprio di ecomafia. I soliti tir che arrivano dal nord carichi di tossine scaricano qua giù al sud. Ma anche ci sono stati anche dei locali, per carità, ci sono stati anche questi cretini che abitano in loco, che scambiavano le campagne per la loro fognatura privata, hanno combinato di tutto e di più, infatti comunque i medici stanno sempre con le maniche imboccate. Noi sia con la musica che con le nostre varie attività cerchiamo proprio di perorare queste cause affinché si faccia chiarezza e si bonifichi il terreno, perché non c'è altro da fare oggi come oggi. Queste cose il turista spesso non le sa e neppure se le chiede. Vabbè, non gli puoi chiedere questo perché vengono a distrarsi dopo un anno di lavoro, e anche questo qui è comprensibile. ma bisogna, diciamo, agire in tempo affinché questa terra poi non venga abbandonata anche dai turisti. Eppure, diciamo... Nando, senti, ma proprio parlando di luoghi comuni, quando si parla di sud, di profondo sud, viene in mente, ormai è diventato uno stereotipo grazie anche ai fenomeni hollywoodiani, che ormai insomma stiamo parlando veramente di film di 40, 50, 40 anni fa almeno, se non addirittura di più. Possiamo parlare per esempio della Calabria, che ha una situazione insomma veramente, veramente compromessa e particolare. Eppure però invece il Salento, nel linguaggio comune, nel luogo comune appunto, ed è quello di cui ci occupiamo, rimanda sempre a immagini positive, non viene mai associata a quel tipo di meridione, a quel tipo di mezzogiorno, ma a un altro tipo insomma di meridione, magari la parte più solare, più allegra, più ospitale, più abbondante anche come offerta. Ma guarda, anche questo è un luogo comune, viaggio tantissimo tutto l'anno e posso dire che comunque c'è più sud spesso al nord che al sud, poi insomma Expo, Mose, Tardo, insomma parlano chiaro, mica ci sono gli angioletti, per non parlare poi delle grandi industrie dell'alimentazione che ci propinano veleni nel piatto in cui mangiamo ogni giorno. E di pochi giorni la notizia che dal Friuli arrivava il latte intriso di diossina, insomma. Purtroppo viviamo in una nazione strana, è una matrigna che ha voluto applicare l'equazione machiavelliana del dividi et impera, per cui il sud da anni viene considerato, e da 154 anni viene trattato e considerato come una colonia interna al paese. E questo purtroppo non è un luogo comune, questo è purtroppo, lo dicono i numeri, li dicono. Non è vero che il Terrone ha poca voglia di lavorare, mentre quello del Nord ha più voglia di lavorare. Queste sono le fesserie che ci propinano per prenderci in giro, per venirci a rubare in casa. E questo, ripeto, succede da un secolo e mezzo. Detto questo, anche fra Puglia e Calabria non vedo alcuna differenza. Io mi sono trovato in molti luoghi della Calabria dove l'accoglienza e il benessere non mancavano, dove il sorriso della gente insomma non aveva prezzo, ma questo lo trovo anche al nord e ovunque, ripeto. Purtroppo, ripeto, l'Italia è stata, non è una nazione fondata sul lavoro, è una nazione fondata sul dividi e timpera. Purtroppo l'unico capitolo della storia della letteratura che i nostri politici hanno studiato è stato Machiavelli e il principe, poi hanno cercato di dimenticare tutto il resto, di riposarlo, perché faceva più comodo questo atteggiamento, perché questo è l'atteggiamento che gli assicura diciamo il vitto e alloggio a sbafo in questa nazione. È lo stesso atteggiamento che poi hanno, diciamo, nei confronti degli immigrati. Soltanto in Italia cacciano gli immigrati, ecco perché è una nazione povera. Vedi, il PIL lo sanno tutti, dipende dall'incremento demografico. Noi siamo una nazione che non fa figli e poi si permette il lusso anche di cacciare via gli immigrati. Ma dico, le automobili a chi le vendi? Come fai a riempire i supermercati se non c'è più nessuno? Se quelli che ci stanno già dentro il territorio hanno ormai tutto e non hanno bisogno di comprare più nulla. Siamo una nazione stupida che si morde la coda, è come il serpente che si morde la coda. Purtroppo tutto ciò giova a chi comanda, perché chi comanda è ricco e può fare la spesa. I poveri si picchiano tra di loro, fanno baruffe, poi quando ci sono i mondiali si sentono italiani, abbiamo vinto noi, alla fine non hai vinto tu hai sempre perso. Scusate, questo è il mio pensiero, ma ne sono straconvinto. Soprattutto, parlando di mondiali, in questo mondiale, insomma, mai frase come questa si sposa bene agli eventi sportivi degli ultimi giorni. Senti Nando, ma con i sud appunto, tu attraverso il reggae, lo dicevo anche nella premessa, hai trovato un'ottima cassa di risonanza, in parte anche per le cose che stai dicendo e per alcuni tipi di messaggi. Entriamo un attimo nel vivo un po' del luogo comune. Questo Salento è la Giamaica d'Italia, ma secondo te com'è nato questo luogo comune? Ma perché comunque il reggae è nato qui nel Salento, è nato qui e quindi era molto facile poi raggiungere questa equazione, questo luogo comune, per il fatto che qui si facevano e si fanno un sacco di dancehall ogni sera. A fine degli anni Ottanta partì perché comunque c'era la Sacra Corona Unita che si era fregata i nostri posti, le nostre piazze, noi non avevamo luoghi in cui andare e da lì ci fu la fuga verso la campagna. Andavamo a fare le feste in campagna perché nelle piazze si sparavano e c'era lo spaccio d'eroina, a noi non interessavano queste cose e c'è stata, diciamo, questa fuga bucolica. Poi si è sparsa la voce, anno dopo anno sempre più gente è venuta a farsi le feste qua nel Salento, a iniziare da Roma con gli amici Wallova e Paua o con Villa da Posse e tutte le altre crew del nord Italia. C'è stato questo passaparola, ripeto, per il fatto che si poteva fare festa tranquillamente, ognuno poteva venire a fare la sua selezione, il DJ, il cantante, per cui diciamo i numeri suggerivano diciamo questo accoppiamento tra Salento e Giamaica. Chiaramente, così come non siamo degli alberi e non abbiamo le radici, anche questo c'è, non siamo la Giamaica, siamo una terra che è di fronte all'Albania, guarda un po', e non di fronte a Miami. Eh no, certo, quindi... questo è vero. Ma tu e anche gli altri componenti, come mai avete scelto il reggae? Tu giustamente mi puoi rispondere perché mi piaceva, e va bene. Al di là del piacere personale verso questo tipo di musica, eri attratto da, non so, le sonorità, eri attratto dalla possibilità di poter veicolare alcuni tipi di messaggi? Sì, penso che la sonorità abbia vinto in primis, anche se comunque diciamo che nel periodo in cui noi ci affezionammo a questa musica era l'anno in cui il ragamuffin, non il reggae, proprio il ragamuffin, diciamo la parte più elettronica del reggae, stava uscendo fuori dalla Giamaica dopo tanti anni, grazie ai migranti ancora, giamaicani emigranti che erano andati a vivere a Londra. I nostri amici che erano stati in vacanza a Londra avevano comprato dei 45 giri, no? I famosi 45 giri che qualcuno ricorderà ancora, dove da un lato c'era la canzone e nel B-side, sul retro, c'era soltanto la version musicale. È stato così per gioco, noi scoprendo la version abbiamo iniziato a cantare, ma a cantarcele tra di noi, ma a scherzare, era una cosa, uno scherzo anche per prenderci un po' per il sedere, non c'era nulla diciamo che potesse farci pensare che un giorno saremmo diventati cantanti, no, per carità, era proprio un gioco, perché ripeto, stai scappando via dalle pistole e dall'eroina, ti ritrovi lì in mezzo, vuoi scherzare, vuoi stare bene, e la musica ti dava diciamo la possibilità di giocare. Poi non so, forse il fatto che alla fine siamo tutti nipoti e pronipoti di tarantati, quell'attitudine diciamo a cantarcele era viva. Io non ho mai, nessuno mai mi ha imparato la tarantella, nessuno mi ha mai insegnato a ballare la tarantella, ma mi sono accorto di saperla ballare, ma perché vivi in un contesto che ti offre quasi questi modelli nel di assorti. DNA, insomma. Sì, DNA è una questione sia diciamo fisiologica e anche culturale, sono cose che magari non credi di aver visto, invece l'hai visto quando eri bambino e l'hai memorizzate molto bene. E questo ci ha aiutato appunto a progredire musicalmente e dopo successivamente a crederci, perché ti accorgi che vivi in un territorio che è anche recettivo da questo punto di vista, che accetta diciamo di buon grado, e allora ti impegni affinché tu faccia ancora più cose. Senti, poi da lì chiaramente i giornalisti salenti la Giamaica, però sai come i titoli hanno bisogno di massimizzare, no? Di standardizzare, va bene, fa anche comodo a volte può anche rompere le scatole, essendo un luogo comune appunto. Quindi avete iniziato, avete insomma ottenuto anche un riscontro positivo, ma il retroterra da cui venivate appunto, come giustamente detto tu, era quello di una piazza difficile, era quello insomma di una terra difficile. Avete all'inizio proprio, mi appello ai tuoi ricordi in un certo senso, ne parlavate di questo, nel fatto di poter usare il reggae, vedendo anche i primi riscontri positivi per poter parlare della situazione magari che vivevate e da cui che rifiutavate dal punto di vista personale e dalla quale cercavate di creare anche un'alternativa valida, insomma, cioè quella rifiutare la parte, sto parlando delle, come hai detto tu, delle pistole, dell'eroina, e creare invece alternative positive anche nei confronti dei vostri allora coetanei, insomma. Eh sì, guarda, il primo singolo che uscì nel 91 c'era due canzoni, una era Cuecu, dove appunto si esprimeva l'amore per queste sensazioni musicali, e l'altra si intitolava Tasciuta Buona, Ti è andata bene, ed era dedicata proprio ai nostri amici che avevano scampato l'eroina e a chi purtroppo non ce l'aveva fatta. Ma sin dal primo album sino ad oggi le liriche diciamo dedicate ai fenomeni della violenza non sono mai mancate, ci sono sempre state, sia per stigmatizzare il fenomeno sia per parlare in faccia ai ragazzi che hanno 13-14 anni, quelli ancora più deboli e quindi più influenzabili, per fargli capire che la pistola non è un gioco, ma è una roba da pezzi di merda, insomma, sono quelli che hanno rovinato le piazze, i paesi e la vita di tantissimi loro coetanei, e dalle quali bisogna prendere le distanze. Molti ragazzi che prima erano sulla piazza a spacciare hanno mollato tutto perché magari qualche consiglio gli è arrivato anche dalla canzone, o ad un certo punto diciamo queste canzoni sono diventate così normali da far vergognare qualcuno e fargli abbandonare quel tipo di vita. Non è successo chiaramente per tutti, perché non è che si può pretendere addirittura questo, però nel nostro piccolo, diciamo, abbiamo creato dei modelli che qualcuno poi ha implementato e ne ha giovato. Nando, senti, ma finita l'estate, a dicembre, a gennaio, a febbraio, che terra è il Salento? Come vive la gente nel quotidiano? Che tipo di problematiche riscontra principalmente? Quindi abbandoniamo la parte diciamo, turistica, sole, mare, spiagge, di cui insomma abbiamo trattato anche abbastanza per il tempo concessoci. Invece il Salento invernale, il Salento quotidiano, il Salento lontano dalle spiagge e dai giornalisti, com'è? Guarda, dal punto di vista climatico qui l'inverno è un eufemismo. Ci saranno... cioè, pure tu c'hai ragione, effettivamente. Sì, ci sarà magari più di 40 giorni di freddo, compresi tra gennaio e febbraio, poi per il resto, insomma, a dicembre ci stanno ancora 20 gradi, ci stanno. Io poi sono un ciclista, per cui colleziono le giornate calde, mi servono tantissimo per allenarmi, per cui ho una memoria storica delle stagioni. La stagione è sempre buona, ecco perché consiglio anche la campagna. D'inverno, per esempio, il turismo continua in campagna, ci trovi i tedeschi, i francesi, gli inglesi, i canadesi. Quindi il turismo tutto l'anno continua anche in sì, continua tutto l'anno. Certamente non con i numeri, ti faccio un esempio: Gallipoli ha 20.000 abitanti, d'estate ne raggiunge 250.000. Non si raggiungono, diciamo, questi numeri, però il flusso è continuo ed è gradevole vedere, diciamo, la gente che si è aperta. Anche le scuole si stanno organizzando per cercare di formare delle nuove figure professionali che possano dare le risposte a questo fenomeno. Vedi, il Salento se la passa bene, e di questo se ne è accorta anche Taranto. Per esempio, Taranto sino ad oggi è stata svenduta ai porci dell'acciaio, che l'hanno mercificata, l'hanno schiavizzata, quando invece Taranto era ancora più importante di Lecce. Taranto è stata capitale della Magna Grecia. Magna Grecia, certo, come no? Ma la Magna Grecia, cioè parliamo di Archimede, Pitagora, mica parliamo di qualche capitello, di qualche colonna. Quindi non c'erano soltanto monumenti, c'era la scienza. Dal porto di Taranto partivano ingegneri, architetti che costruivano le polis nell'intero Mediterraneo. I greci hanno conquistato il mondo costruendo dei supermercati, gli ipermercati di una volta, dove c'erano le terme, dove si vendevano prodotti. Questa era Taranto. Oggi i ragazzi di Taranto, i giovani, che poi vedi a Lecce la sera vengono a passare la serata sia da Taranto che da Brindisi, perché in quelle città purtroppo non è che ci sia tanto la sera, anche se Taranto è una realtà quasi metropolitana e ha molto, ma molto di più di Lecce. I tarantini si sono accorti di questo e dicono: ma vedi, a Lecce non c'è una fabbrica, sono più ricchi di noi. A chi giova questa fabbrica? E ti posso assicurare che Taranto è dotata di spiagge stupende, bellissime, ancora vergini, un entroterra anche, diciamo, un po' più ricco, perché Lecce è tutta piatta, invece lì ci trovi un po' di colline, per cui è diversificata. Già la Valle d'Ipia da anni, che è compresa tra Taranto e Brindisi, si è organizzata insieme al Salento, diciamo, offrono dei servizi turistici all'avanguardia, corredati da concerti e spettacoli. E bene o male queste zone disastrate stanno iniziando a emulare il fenomeno, chiamiamolo così, Salento. Nando, è molto meglio avere, diciamo, la fotografia, fotografando appunto questa parte d'Italia, quindi ok, mi va benissimo il tuo discorso, non occupiamoci solamente del Salento, possiamo anche spaziare un po' dal punto di vista geografico. Un ragazzo che ha finito il liceo, l'istituto tecnico, così, ha preso il diploma, in altre regioni, insomma, io facendo questo mestiere un pochino ho parlato con i ragazzi, eccetera, eccetera, mi hanno spesso, la risposta che mi è stata data è quasi obbligatorio, non è che hai molta scelta, il fatto di, per esempio, voglio continuare all'università, me ne vado a Napoli, Roma, Milano, voglio anche lavorare, quindi me ne vado a Napoli, Roma, Milano, quello che è. Secondo te, in questa parte d'Italia, parliamo sempre della stessa situazione, per un ragazzo sui 19-20 anni è una scelta obbligata, o c'è possibilità di poter rimanere e potersi sviluppare sempre nel territorio, insomma, la propria vita, la propria esistenza, la propria famiglia? Guarda, oggi non è più obbligato, oggi ci sono diverse chance. Allora, torniamo ancora sull'industria che ha fallito. Ancora oggi, diciamo, i capitoli che arricchiscono la Puglia, il Salento, diciamo, nell'export, sono il vino, l'olio e l'agroalimentare bio. Abbiamo queste ricchezze e ancora il 70-80% delle campagne sono lì lasciate, abbandonate, inutilizzate, per cui bisogna formare non solo albergatori e direttori di marketing per il turismo. Bisogna incominciare ad implementare una nuova agricoltura, anche perché oggi non c'è più la zappa, oggi abbiamo la telematica, i computer, i trattori, quindi la campagna deve essere presa con questo piglio di innovazione, portare avanti un nuovo discorso, perché già chi lo sta facendo, e le eccellenze le abbiamo nella zona di Bari, nelle zone delle Murge, lì hanno iniziato a produrre l'agroalimentare di un certo livello. Dobbiamo copiare questo modello e dobbiamo riproporlo anche nel Salento, perché le masserie abbandonate devono diventare degli alberghi dove si fa agroturismo. Ed è il passo successivo che dobbiamo fare. E noi stiamo cercando anche di convincere i ragazzi, non soltanto con i concerti, ma d'inverno andiamo anche nelle scuole per tenere, diciamo, dei workshop, dei seminari in cui la musica è un pretesto, diciamo, per chiamare a raccolta i ragazzi e parlargli delle cose che poi tra l'altro noi vediamo viaggiando, abbiamo contatti con tante persone e cerchiamo di creare contenitori in cui vanno a finire tutte le nostre esperienze. Quindi credi molto nel ritorno alla terra da parte dei giovani, dopo decenni di marketing, per forza lavori in città, per forza lavori in aziende, per forza in strutture piramidali, giacca e cravatta. Pensi che sia, insomma, arrivato il momento di affermare una nuova cultura di ritorno alla terra, di terra non solo che fa tanta fatica, poco guadagno, ma insomma anche una possibilità economica e lavorativa valida, insomma? Guarda, innanzitutto la terra significa essere padrone della terra, ed essere imprenditore di te stesso e non essere un povero che lavora, diciamo, in un call center perché prendi 800-600 euro, non potrai mai avere una casa, non potrai pagare mai un mutuo, cioè schiavo, diciamo, i ragazzi l'hanno capito, anche schiavo, sì, i ragazzi lo stanno capendo, ma perché quando poi ti trovi a 40 anni ancora non hai nulla, dici ma cosa sto facendo, cosa ho fatto? Cioè, purtroppo, vedi, è una questione anche di evoluzione della specie, quando un percorso diventa ormai impraticabile lo abbandoni e cerchi delle nuove vie. È quello che sta succedendo qui da noi. Prima, ti faccio un esempio, prima qui l'uva, venivano fatti gli uliveti e nessuno vinificava. Il nostro vino andava a finire, o il mosto addirittura, andava a finire in Francia. Qui si faceva una malvasia che raggiungeva 17-18 gradi e veniva venduta ai francesi che la usavano come vino da taglio. Poi fortunatamente, per esempio, arrivarono persone come Severino Garofalo, che è stato uno dei primi vinificatori del Salento, ha riscoperto vecchie ricette e ha fatto il Padriglione, che è una bottiglia che costa 50 euro. E da lì è nato, diciamo, la nuova vinificazione salentina, da lì è uscito il Primitivo, il Negramaro, i Rosati. Cioè, ripeto, in 10 anni siamo passati da fornitori di vini da taglio per i francesi a produttori di vino nostro, e questo ha dato tanto lavoro. La stessa cosa con l'olio, prima tutti facevano l'olio in modo povero, qui le olive venivano fatte cadere sul terreno e poi venivano scopate con la scopa, no? E raccolte nei sacchi. Chiaramente l'oliva ammaccata produceva un olio molto acido, quindi non buon, dalle qualità non eccellenti. I ragazzi hanno detto, ma perché dobbiamo farla cadere a terra? Ci sono le reti, esistono le reti, mettiamo le reti, raccogliamo le olive con le reti, con l'abbaccatura, le facciamo cadere e facciamo l'olio extravergine. E così abbiamo cominciato anche ad esportare l'olio, perché prima l'olio lo facevano soltanto in Toscana, in Liguria o in Umbria, qui ce n'era pochissimo. Quindi, oppure lo facevi per te, per casa, per non comprarlo al supermercato, quindi, Nando, come ancora oggi accade. Nando, quindi insomma il Salento, oltre a sole, mare e musica reggae, anche come terra di agricoltura, di possibilità economica e di sviluppo, quindi per chi ci lavora allontanarsi dalla costa non è assolutamente un rischio ma è un'opportunità, e anche per i radioascoltatori, questa è una radio che va in onda a Roma nel Lazio, quindi magari che scelgono il Salento come meta, anche un pochino potremmo suggerire magari di farsi consiglio la masseria, andate a fare le vacanze in masseria, anche perché vi troverete fantastiche masserie fortificate del 200, del 300, del 400, qui le masserie hanno iniziato a farle i basiliani intorno all'anno 1000, troverete anche tracce delle crociate, dei cavalieri, perché per esempio c'era la via che da Roma portava a Gerusalemme, che passava appunto dal Salento, da Otranto prendevano le navi, anche il nostro studio dove registriamo è stata anche una chiesetta dove i crociati andavano a pregare. Il Salento è pieno di questa storia, ma bisogna riscoprirla, valorizzarla, anche perché altrimenti poi si perde tutto nell'isteria collettiva di Calippo sulla spiaggia, che lascia il tempo che trova. Certamente, Nando. Altro luogo comune è che il tempo è tiranno e quindi purtroppo siamo arrivati al termine. Io ti ringrazio comunque per la bella ed esaustiva, devo dire abbiamo affrontato tanti temi in questi 30 minuti, chiacchierata. Grazie mille. Grazie a voi e alla prossima. E salutando Nando Popo dei Sud Sound System, appunto, e ringraziandolo per essere stato nostro ospite, siamo giunti alla conclusione di questa puntata di Luogo Comune. Invitiamo tutti i nostri ascoltatori a visitare il sito www.radiocittàaperta.it, a sostenere la campagna di raccolta fondi Non esistono più le mezze stazioni. Ricordiamo di usare questo benedetto Facebook, Luogo Comune è il logo, quello che ci trovate, quello di Radio Città Aperta, il logo da cercare su Facebook. Vi piace cinguettare, chiocciola Luogo C, oppure una bella mail a luogocomune.radio@gmail.com. Io vi ricordo che fino al 13 luglio a Roma c'è il Fringe Festival, il festival di teatro off, con tre palchi dove ci sono tre spettacoli ogni sera, alle 20.30, alle 22 e alle 23.30, per un totale quindi di 9 spettacoli, così fino al 13 luglio. C'è il sito internet Fringe Festival Roma, ve lo cercate su Google, appunto, e ve lo consiglio. Io lo sto frequentando molto in questo periodo e mi pare una validissima alternativa magari alle calde serate, anche se insomma per adesso c'è tanta pioggia, comunque alle calde serate estive. Da Luogo Comune è tutto, l'appuntamento è per venerdì prossimo, forse è l'ultima puntata, vediamo un attimo, ore 13.30 sempre sugli 88.9 di Radio Città Aperta. Da Valentino De Luca un buon venerdì e soprattutto un buon weekend. Ciao.